procediamo. Vedete un po' come stiamo cercando di collegare tutti i fili. Ci spostiamo, come ho detto in precedenza, a pochi passi dalla redazione per quanto riguarda il territorio comunale, che è quello di Castelmaggiore, però siamo più vicini al territorio di Castelmaggiore vero e proprio, cioè a Villa Salina, per appuntamenti da questa sera fino al 18 giugno. Attenzione, perché Condimenti già da tempo, nonostante sia la 11ª edizione, è seguito da Radio Città Fujiko. La direttrice artistica Luciana Apicella in conferenza stampa ha dato la disponibilità per darne una sintetica presentazione. Dico solo che torna l'appuntamento dell'estate di Castelmaggiore al parco di Villa Salini Malpighi. Si svolgerà, come ho detto, da venerdì 16 a domenica 18, Condimenti, festival di cibo e letteratura, con un ricco programma che vede presentazioni di libri, cuore della manifestazione con appuntamenti serali di musica e teatro, laboratori per grandi e bambini, degustazioni ovviamente già da Condimento, la parola che porta a intuire che ci sarà una gastronomia quanto mai appetitosa e curiosa, appuntamenti di sport e benessere all'aria aperta. Beh, di tutto chiaramente, con la voce di Luciana Apicella. Vi dicevo che per quanto riguarda gli appuntamenti gastronomici, oltre che per i palati più curiosi e raffinati, ci sono anche determinate specificità. Beh, faccio partire il dialogo che ho avuto con Luciana per saperne di più. Sì, diciamo che Condimenti è diventato un pochino l'appuntamento che apre l'estate di Castelmaggiore. Da qualche anno l'appuntamento si svolge nel parco di Villa Salina Malpighi, una villa e un parco che sono stati recuperati e riaperti al pubblico proprio in queste occasioni. Infatti, durante le giornate di festival ci sarà anche la possibilità di visitare con le guide di Sustenia la villa e scoprirne insomma le curiosità. Era una villa appartenuta a Marcello Malpighi, anatomista, che qui aveva, come dire, sfogato la sua passione per la botanica, quindi ci sono una serie di piante veramente inconsuete per il territorio, che è un piacere vedere e scoprire, oltre alla bellezza della villa in sé, con affreschi e insomma una struttura tipica della seicentesca. Oltretutto, come ho detto entrando in questa conversazione, ci saranno diversi aspetti di intrattenimento. E che giorni saranno? Allora, si parte tradizionalmente il venerdì sera con l'appuntamento di Condimenti Off, che vedrà sul palco Peppe Voltarelli, cantautore che a Bologna è conosciuto per essere stato il frontman del Parto delle Nuvole Pesanti, in quella stagione felice e fortunata della musica che furono i primi anni 90 a Bologna. Peppe nel frattempo è diventato un cantautore di grande successo, con tournée in Italia e all'estero, ha vinto due volte la Targa Tenco e ci porta il suo recital, così si chiama anche il suo ultimo album, che è una rivisitazione di brani famosi di cantautori da tutto il mondo, da brasiliani ad americani, da Bruce Springsteen a João Gilberto, tradotti in italiano, che compongono un po' la sua personale visione della canzone. Il sabato sera avremo una comica emergente, Anna Gaia Marchioro, che è stata vista nella TV delle ragazze e insomma in varie trasmissioni televisive, una voce piuttosto pungente che parlerà soprattutto insomma di contemporaneo, in particolar modo insomma con uno sguardo sul mondo femminile. Mentre domenica sera torniamo in Calabria, Peppe Voltarelli calabrese, torniamo in Calabria con un omaggio a Rino Gaetano, con il Marco Morandi, il figlio di Gianni Morandi, e la sua band I Rinominati. Perché ci sono due ospiti che fanno l'occhiolino alla Calabria? Perché la regione ospite di questa edizione è proprio la Calabria. Thank you. benissimo e non solo da Radio Città Fujiko. L'anno scorso ho presenziato per una serata la curiosità appunto per questa diffusione culturale quanto mai forbita e diversificata, e perché no anche alla gastronomia, come vi ho detto in precedenza. Paese ospite, paese, regione ospite è la Calabria. Mi scuso con tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori calabri in questo momento all'ascolto, anzi un caro saluto. Vi ho anticipato di alcune curiosità, beh eccole nella seconda parte di conversazione che con la direttrice artistica Luciana Picella, insomma ci siamo un po' piacevolmente dilungati. Oltretutto passiamo all'aspetto enogastronomico. Quali realtà ci attendono per i palati più curiosi? Allora vi devo dire subito la prima, che si chiama Vagina, va apostrofo Gina, non so se si possa dire agli spettatori, sono ovviamente romagnoli e fanno una rivisitazione dei ravioli cinesi riempiti però insomma con sapori invece della nostra tradizione. Ci sarà il pesce con banco 32, ci sarà una polpetteria, una banco invece di specialità calabresi, insomma come sempre tante proposte gastronomiche. Poi avremo ovviamente anche gli appuntamenti aperti al pubblico di degustazioni guidate, i Cooking Lab, con Sfogliarina che farà una preparazione in cui sud e nord si incontrano, quindi Calabria ed Emilia Romagna si incontrano. Avremo una nutrizionista, la nutrizionista del ristorante Libra di Bologna, che ci preparerà un piatto per tenerci in forma per l'estate, esperta di cucina, mi sta mostrando la panzetta il caro William. E poi avremo invece una degustazione guidata di vini calabresi con la Confraternita dell'Uva, che quest'anno è nostro partner, è un'enoteca che tutta Bologna insomma ormai conosce, luogo non soltanto di piacevoli bevute ma anche di conversazioni letterarie, e ci fa molto piacere insomma che siano con noi anche a gestire il bar all'interno di Condimenti. Sì. Io volevo però anche spendere una parola sui libri, perché ovviamente sono il cuore della manifestazione, perché avremo Silvia Ballestra, recentemente candidata al premio Strega, quindi siamo candidata al premio Campiello, quindi siamo veramente molto felici di averla. Un autore calabrese molto interessante che è Mimmo Gangemi, che ha scritto questo libro bellissimo su Ettore Majorana, ricostruendone le possibili vicende dopo la scomparsa. Michele Mellara, regista, al suo esordio letterario. Tommaso De Lorenzi, editor, giornalista, che ha scritto un bellissimo libro su Carlo Rivolta, un giornalista della Repubblica che fu il cronista dei movimenti studenteschi del 77, recentemente peraltro è stata dedicata alla sua vicenda una serie su Netflix, e insomma tanti altri che vi invito a venire a scoprire. Collaborazioni con le istituzioni? Abbiamo, ovviamente siamo nel cartellone di Bologna Estate, quindi insomma come sapete da qualche anno c'è una grande attenzione anche al territorio della città metropolitana, non soltanto appunto il palcoscenico di Piazza Maggiore ma anche tutto ciò che accade nelle zone più periferiche. Buoni condimenti. Buoni condimenti. Grazie Luciana. A voi. Try too long. Watching your neighbor seems to fail you with the law. Just cause he's different now don't mean he means you harm. She needs it. We are. it's a common goal. We must all realize it's time to make a change in how we live our lives. Time to discover why we are feeling this way. Let's let love save the day. You need it, brothers said you need it, sisters said you need it. We are gonna need it someday. We seem to lose our way, somehow got led astray. That's why I'm here to say, gotta get back to love. I know you need it, brothers said you need it, sisters back said you need it. Love, loro sono i Brand New Heavy. Poco prima dello stacco pubblicitario delle 8:30, beh, direi last but not least, abbiamo la signora sindaco di Castelmaggiore, delegata alla cultura dell'Unione Reno e Galliera, Belinda Gottardi, che in conferenza stampa ha un po' evidenziato la collaborazione tra Castelmaggiore, Villa Salina e il Festival di Condimenti, che inizierà ufficialmente questa sera, quindi sentiamo le sue parole. Condimenti è uno dei nostri momenti, appuntamenti di punta, qui teniamo moltissimo e l'idea nasce proprio da una passione per la lettura, la letteratura e per il cibo, e che messi insieme secondo noi compongono un connubio perfetto, perché la convivialità del cibo accompagna le persone alla lettura, e la lettura è più piacevole se accompagnata prima o dopo o durante da un buon piatto, e diciamo che l'insieme crea un'occasione per i nostri cittadini di uscire di casa, di stare insieme, sempre avendo un occhio di riguardo a quella che è la cultura, che per noi è un elemento di punta del nostro programma politico e che ci aiuta insomma a crescere personalmente come collettività. Il tutto arricchito dalla cornice, che è quella di Villa Salina, una villa che da qualche anno abbiamo in concessione da parte della Regione Emilia-Romagna e che è un'occasione di riconsegnare anche al territorio e ai cittadini la visione di un'eccellenza architettonica ma anche naturalistica, perché così come la villa è bellissima, lo è ancora di più il parco, che è la cornice perfetta per il nostro Festival Condimenti. Luciana Picella, direttrice artistica di questa edizione di Condimenti. La sindaca Belinda Gottardi taglierà ufficialmente il nastro dell'undicesima edizione sabato 17 alle ore 16 con l'inaugurazione della mostra Change the Climate, collettiva di 5 giovani artisti: Michele Lapini, Irene Piesta, Sangelo Camilleri, Michele Liparesi e Matteo Zambelli, che con tecniche differenti, dalla fotografia all'antica tecnica della cianotopia che non conosco, offrono al pubblico, beh, ci sarà opportunità di conoscerla grazie a Condimenti, il loro personale sguardo sulla natura. Ma questa sera, cioè venerdì 16 giugno, ribadisco il primo appuntamento, alle 20:30 salirà sul grande palco centrale Peppe Voltarelli, cantautore calabrese, la Calabria è regione per questa edizione, fondatore negli anni 90 a Bologna della band Il Parto delle Nuvole Pesanti, oggi affermato solista con concerti in tutto il mondo. Personaggio poliedrico che attraverso il recupero del linguaggio e delle tradizioni della sua terra restituisce una narrazione ironica che certamente lontana dagli stereotipi del cantastorie del sud. Il suo primo album, Distratto ma però, vede la partecipazione di Roy Paci, questo per dare alcune indicazioni. Non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai bambini e alle bambine con Coop Alleanza 3.0, che propone 1000 gocce di oro blu. Questo è per continuare a quelli che sono appuntamenti quanto mai eterogenei. Si inizia inizia questa sera e quindi il Festival Condimenti sarà protagonista nella specificità del weekend che ci attende. A breve la pubblicità e poi si prosegue con la rubrica In Scena. Si alza il sipario sull'estate bolognese. A tra poco, bolognese e non, insomma. Bolognese e dintorni, bolognese e città metropolitana, bolognese e provincia. Ci siamo intesi? Ok, a tra poco. Come at all.